Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Olè! Ancora Modric verso Danilo. Digne deve scalare uno contro uno. Cerca il doppio passo. Occhio al cross in mezzo verso Cristiano. 1-0 Real. Eccolo qui. Il 40° gol stagionale di Cristiano Ronaldo. Coche, col tocco verticale per Torres. 1-0 Atletico. Colpisce lui. 11° gol in carriera contro il Barça. 11° gol in carriera contro il Barça. Carvajal cerca e trova il movimento di Bale. Bale. 20° ci pensa lui. Bale. A Thiago Alcantara, prova a liberarsene, ondeggia, slalom, messa Unigas, eccezionale azione, 1-1, prova il tiro, è rete incredibile, che gol Saúl, esplode il calderone. Allora ragazzi, tutti tranquilli perché oggi puntata straordinaria dedicata alla finale di Champions League a due passi da qui a Milano via Monterosa. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Filippo Maria Ricci qui con noi. Buenas tardes. Che tardes? Questa è pomeriggio. Sì. Tardes. E c'è Pierluigi Pardo. No, la buona notizia è che Claudio ci ha pure portato l'acqua. Oggi è proprio tipo... La guida oggi fresca, sì. Non se regala, ma... Quasi. Equipo de gala, c'è triple. Pure l'acqua, allora, si beve. La puntata sarà condotta interamente in lingua spagnola. Anche no. Io vi domando. Questa è Radio 24. 24. Perché la passione... No, si sente così. Diciamo. No, non è se siente, sembra lo siente. Se siente. La passione se siente. Perfetto. Allora, io vi domando. Tenemos Giovanni Minoli en la mañana y tenemos Pepino Cruciani Juan en Minoli, la tarde. Scusa, non Giovanni. Juan Minoli, sí. Perdonateci. Y Pep Crucianos en la tarde con el mosquito. Pep Crucià, perché è un poco catalano. Pep Crucià con il mosquito. È il mosquito, no? Giusto, chiedo, è il mosquito. Ragazzi, è il mosquito, che c'è Ferrero col mosquito? Se cominciamo così, come va a finire? Chiedo scusa a tutti voi, anche a nome della redazione intera, del direttore napoletano e di Confindustria tutta. Ser ma, il benestar e la mañana, corazón y dinero. Allora, io vi chiedo, oggi un sacco di ospiti, puntata appunto dedicata alla finale di Champions, con guest star Filippo Maria Ricci, che di solito, come sentite, come sapete, abita da quelle parti ed è ormai spagnolo. Vi chiedo, dove la vedrete? Solite domande, no? Dove la vedrete? Come la vedrete? Che cosa mangerete sabato sera? Ma soprattutto, chi vincerà la finale di Champions League tra le due solite insopportabili spagnole? È Real Madrid. Eh sì, è così. Ah, così è già finita. Sì, ce l'ha tutti a casa. Il dominio è abrumador. Tu dici assoluto. Real. Pure tu dici? No, dico delle due spagnole. No, io ho detto il Real Madrid, me va ganando. No, vince l'Atletico. Questo. Ah, benissimo, subito contraddittorio, subito divisivo. Vince l'Atletico, però c'è solo un problema, che ci credono un pochino troppo. Hanno un po' esagerato nella settimana. Se riescono Atletico a calmare i bollori, vince l'Atletico. Allora, no... c'è questa, rimane, ne parlavamo prima, un attimo prima di entrare in onda io e Filippo Maria Ricci, c'è stata questa pagina della Gazzetta un po' sovversiva con il Ciolo Simeone... ritratto, bellissima quella pagina, ritratta come il comandante Che Guevara. Se poi volete ve la faccio anche sentire, nonostante tanto ormai abbiamo perso tutto, nonostante siamo una radio di Confindustria. Ebbene, quella pagina, ne hai parlato anche con Valdano, è un'icona, no? È diventato un manifesto, il ciolismo, il proletariato, la classe operaia contro i ricchi, contro che va in paradiso. Sì, domani sulla contro Gazzetta, intervista Valdano. Una cosa che mi dice, secondo me è bellissima, era molto contento Valdano, perché dice: allora, se il Ciolo è un rivoluzionario, vuol dire che il tiki-taka è l'establishment. Esatto. È vero, Pardo? Beh, negli ultimi anni il tiki-taka è stato l'establishment, inteso ovviamente come modulo di gioco, e il ciolismo è una forma di resistenza, quindi in questo secondo è una filosofia di vita calcistica? Ma non è una filosofia di vita, secondo me di fondo l'Atletico Madrid ha la metà del budget del Real Madrid e del Barcellona, forse anche meno, sì. E fa quello che può fare, cioè con quello che ha, che è meno delle altre due, ha partorito un sistema di gioco che le può mettere in difficoltà e che spesso è riuscito a far vincere, quindi questa è la sostanza. Insomma, io non credo che Simeone avesse Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar in squadra, Bale giocherebbe difensivo, no? Ma non è detto che potrebbe fare meglio di quello che ha fatto. Beh, no, non è detto, anche se probabilmente non gli dispiacerebbe una volta provare quel tipo di ebbrezza. Ed è anche vero, poi Filippo ce lo confermerà, che quando l'Atletico Madrid gioca in casa contro l'Eibar, non sì. penso che si metta dietro ad aspettare. No, cioè, quello è un tipo di atteggiamento che deriva dal fatto che sei più forte di molte squadre, ma qui sei un pochino più debole e quindi trovi una forma di organizzazione che ti consente, aspettando, di vincere le partite. E questo è anche quello che sta succedendo al Real Madrid, perché il Real Madrid in Europa ha arretrato molto il suo raggio d'azione. Cioè, un conto sono i 10-2 con Rayo Vallecano, no? Al Bernabeu, in Liga, quando va a giocare in Europa gioca diversamente. E per questo, insomma, è chiaro che non è il ciolismo, perché quel ciolismo lo devi applicare, diciamo, a tutti i giorni della vita. E Real Madrid fa un altro tipo di... Quindi vedi che è una filosofia? Sì, sì, per me è una filosofia, assolutamente. Lo dico, io ho parlato con Koch, ma ha detto la parola filosofia. Voi giocatori non hanno magari un grande eloquio, però la parola filosofia me l'ha detta 4 volte in un'intervista di 20 minuti. Però la filosofia nasce dal fatto che l'Atletico Madrid si è trovato con meno materiale umano e meno fatturato, certo, a giocarsi la Champions, a giocare le grandi partite con le grandi che hanno più qualità di lei, e quindi quando hai meno qualità devi inventare qualcos'altro. Ripeto, non è che un miracolo, non è che l'Atletico Madrid, se gioca in casa con lo Sasuna, sì. si mette dietro e aspetta. Ricci, ma Morata, mi chiedono, potevo chiederlo ad Allegri, che ho incontrato, anzi lo ringrazio, mi ha offerto un gelato, grazie mister, buona di voi. Sì, è stato carinissimo, perché ci siamo incontrati, c'erano i genitori. Gusti? Sì, ma non lascio, l'ho scelto io i gusti. Ho preso crema, nocciola e cioccolato, una cosa madre, squallido. Ma no, poi era anche una gelateria di un certo livello, quindi era tipo crema della nonna, nonna pensionata IMS dal 1900, cioccolato con le nocciole del Piemonte, che però hanno fatto l'Interrail, esatto, e poi sono tornati. Allegri, che è un miliardario, secondo te va nella gelateria sotto casa? No, ma è un posto popolarissimo a Milano, pieno di gente normale, insomma, ecco. Gelatino normale. Quindi di Morata non gliel'ha chiesto. Allora, chiedere a me. Io non ho nessuna curiosità. No, dica lei, dica. Dica, è che... No, aspetta a dire. Abbiamo un traffico. Traffico. Dopo il traffico, tutta la verità su Morata. Ciao, ciao, Dale! Tutti convocati. Tutti convocati. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Grella, Fiore, scatena subito l'azione d'attacco, è partito Simeone, rete! Quanto al ciolismo, niente, sono dei momenti e credo che noi veniamo lavorando da 4 anni molto bene. Non è casualità quando uno gioca con 2 delle 3 squadre più forti del mondo in queste 2 qualificazioni e va avanti. Qualcosa di buono faremo, sicuro. La gente emozionata, crea molta responsabilità anche tutto questo, perché lotti contro dei campioni veramente troppo forti come sono il Barcellona, il Madrid, il Bayern Munich, il Manchester City, però abbiamo un cuore grandissimo e come abbiamo questo cuore andiamo dietro di nostra illusione. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. E tu, querida presenza, comandante Simeone. Beh, devo rifare. Anche che so, io dire. Anche se Che Guevara, è una di quelle figure Che Guevara. Un sacco veramente di messaggi trasversali alla fine, poi, no? Un sacco di messaggi carini. Io, tra l'altro, 800240024, c'è Alessandro da Roma, ma 349-238-6666 per sms. e WhatsApp. Dunque, c'è chi, Luca da Genova, la vedrà sul divano con Marilena, blu cerchiata come me, e vince l'Atletico. Poi ce n'è uno amarissimo, tifo Real perché tutto quello che anche vagamente ricordi i ladri prescritti mi fa vomitare, e poi l'Atletico gioca da schifo. Più amaro di così. Sembra... Non se può. No, esatto. Non se può. Mi sembra... questa finale di Champions... È bello quando la polemica lascia spazio invece lascia alla spazio serenità. All'amarezza. Sì, sì. Questa brutta finale mattina di Champions è un po' Interciolo contro Juve Zidane. Roberto da Belluno, questo è invece più carino, più interessante. Sì. Filippo Maria Ricci oggi in studio con noi, oltre al Pierluigi Pardo che è padrone di casa, Alessandro da Roma pure. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buenos días. Buona dia. Io sono ricassato con una peruana e sono un ex giocatore. Ho 38 anni. Sono sempre stato un grintoso difensore, amante di Roberto Carlos. Sì. Dove ha giocato? Dove ha giocato? Io ho giocato con il Frosinone tanti anni fa, nel 96. Quando mi stavo per diplomare. E l'ultimo campionato l'ho concluso a 34 anni in seconda categoria, la categoria inferiore, con il Campagnano di Roma. Oh, io ci giocavo contro il Campagnano, eh. Ci giocavi? Sì, noi Girone della Cassia, prima, seconda e terza categoria. Girone della Cassia, non è un dettaglio, è Roma Nord, Roma Nord, i poteri forti. Che qui parte la polemica. Siamo di Roma Nord tutti e due, lui è ancora più nord di me. Campagnano era forte, eh? Sì, no, io giocavo a Isola Farnese o alla Storta, le mie due squadre del Pueblo. La de Storta Isla Farnese. Dica, scusa, abbiamo un po' interrotto. Parliamo del Campagnano. No, sì. Prego. Adesso dei giocatori attualmente presenti, quello che adoro di più è Cristiano Ronaldo. Perché è un giocatore completo. Punizione, colpo di testa, profondità, tutto quello che è un attaccante, no? Sì. E diciamo, ecco, non amo tanto il tiki-taka come alla Barcellona. Io infatti con i miei amici litigo continuamente perché tengono la palla al piede, e preferisco più, ecco, una squadra un po' più versatile, che ha un'ottima velocità, un'ottima profondità, ma che tiene la palla poco e che segna tanto. Questo un po' come il Barcellona di quest'anno, cioè non è che tenesse la palla poco, ma andava molto più in profondità, e a tratti mi è sembrata la squadra migliore possibile, molto meglio di quella di Guardiola, ma questa è un'antica disputa. C'è chi scrive: ai rigori ad oltranza la finale di Champions e vince l'Atletico con errore di CR7. Questo è lo spettro di Manchester 2003, aleggia su San Siro, la finale più brutta della storia della Champions. Sì, beh, insomma, anche Bayern-Valencia del 2001 a San Siro non fu il massimo. E Cristiano Ronaldo ha già sbagliato un rigore, tra l'altro, sì, Salvato da John Terry, che cade. Mosca. Che esatto. Cade su una e lascia una zola, l'ho raccontata 20 volte, ma ormai sapete, sono bollito, è anziano, che con Marco Foroni era finito tutto, aveva piovuto tantissimo, fra l'altro si giocava credo alle 21:45, sì, se non alle 22:45 era locale perché c'era il fuso, quindi la finale è finita, saremmo usciti alle 2 di notte dallo stadio e siamo passati in questa immagine spettrale e c'era questa voragine, perché chiaramente aveva piovuto tutto il tempo, c'era questa voragine della... più o meno all'altezza del dischetto, che sì, probabilmente sarà quella decisiva. Poi e poi quell'anno Cristiano Ronaldo vince il pallone d'oro anche grazie all'errore di Terry, e insomma poi ci ricorda che il calcio è materia liquida, no? Dove certe volte anche l'elemento del culo può essere decisivo, almeno a livello individuale, perché quando arrivi alla finale così combattuta sbagli il tuo rigore, ma anche sabato sarà così, cioè vuol dire un episodio, un dettaglio, cioè vuol dire, sarà una finale tra due squadre che amano difendersi. Che amano difendersi, è detto e applicato questo concetto Real Madrid, fa abbastanza sensazione. No, però adesso cioè, questo Madrid equilibrio. In questo Madrid in Europa soprattutto è una squadra che per me è molto simile all'Atletico, Casemiro è il tempo di Casemiro, esatto, adesso ho capito, adesso Casemiro è diventato come Cristiano Ronaldo, il povero Benitez sarà lì che si rode a Newcastle, nella ridente Newcastle per la quale ha firmato. E allenerà seconda divisione, cioè lui Casemiro lo voleva, poi no, al classico gli hanno detto no, guarda, questo qua non gioca. Senti, Phil, ma come lo vedi Zinedine Zidane allenatore? Oh, bene, ecco, dobbiamo parlare di Zinedine, una sorpresa a livello dialettico grandissimo. Non parla tanto, non ha grandi argomenti, E allora quando finisce i suoi argomenti sorride, un po' come Carlo, no? E veramente ricorda tantissimo Ancelotti. Però io l'ho trovato, io l'ero andato a vedere apposta quando lui l'anno scorso al Castiglia non dava neanche le conferenze stampa, quest'anno le faceva solo in casa per prepararsi. Ero andato a trovarlo e mi aveva già sorpreso. Ma adesso, guarda, cioè, fare tante conferenze stampa a Real Madrid non è semplice, cioè c'è l'atmosfera, certo, può essere tesa, complicata. Lui veramente mi ha sorpreso a livello proprio di immagine, di gestione delle parole, delle situazioni. Ogni volta che c'è un problema lui sorride e si smarca. È positivo, molto positivo. Non me l'aspettavo. Luca, buongiorno. Ciao, buongiorno. Due cose rapidamente. Allora, io prima di tutto me la prendo tranquillamente in poltrona. Sì? Oltretutto abito lì in zona Sassiro, qui sarà quasi in diretta. Quindi apre la finestra e sente. Esatto, sono un ciolista, io spero che per me vada in paradiso. Quindi è interista? No, rosso nero. Come ciolista rosso nero non è possibile. È sempre stata. Rossoneri sono sempre state la squadra di operai una volta. Adesso questo è vero. Calcisticamente, però il Milan ha un modello estetico diverso. Il Real Madrid è sempre stato. Volevo dire due cose. Allora, secondo me, le due squadre, per me, chi ha un'anima che gioca come squadra è l'Atletico. Il Real è una grandissima cozzaglia di campioni fuori dal normale, ma io onestamente non lo vedo né con un modulo difensivista né con un modulo all'attacco, personalmente, perché anche nella semifinale che ho visto dell'Atletico, l'Atletico ha saputo anche al momento, quando ha visto che l'avversario è in difficoltà, cambiare il modo di giocare, aggredirla più in avanti. Per cui per me l'Atletico, anche perché giocano da tanto tempo insieme, tutto quello che volete, però la vedo proprio più squadra nel vero senso della parola. Gli altri sono dei campioni fuori dal normale, indiscutibili, però no, io non ho il Reale, da tutto questo, non solo oggi, non lo vedo come una squadra di calcio. E l'ultima cosa, velocemente, è, secondo me, se non o si diminuiscono i giocatori o si allarga il campo, non vedremo più un calcio offensivo, perché ormai tutti gli spazi sono occupati, allarga tutte il le campo? Squadre sono preparate atleticamente, cioè, tecnicamente. Allarga il campo, cioè cambiamo le misure del campo. O diminuiamo i giocatori, perché ormai sono tutti tecnicamente e fisicamente pronti, non c'è più spazio, no, non si può più giocare sulle ali. Non sono d'accordo sul tecnicamente, perché ha ragione Arrigo Sacchi quando dice che vedere un giocatore che o Sconcerti, che dice la stessa cosa, vedere un giocatore che salta l'uomo in Italia è merce rarissima. Quindi non sono così convinto che siano tutti così pronti tecnicamente, però lascio la risposta ai ragazzi. No, il campo non allargherei, no. Quello, cioè in Spagna secondo me è la grande... È vero che l'Atletico è squadra della Madrid? No. No, però rispondo con quello che mi ha detto Coke. Dice Zidane è con noi da cinque anni, sì, il contrario, scusa. Simone è con noi da 5 anni e Zidane è con loro da 5 mesi. Questo è per me una buona maniera di leggere la questione. Sono più squadra in questo senso, sono più gruppo. L'altro giorno anche Zidane parlava di Simeone, a parte l'ha elogiato, a me è piaciuto, ha detto anche no, io devo ancora imparare tanto. Dice però la cosa migliore di, diciamo, Simeone ha tante doti, cioè migliore è che conosce benissimo i suoi giocatori e la sua squadra. Questo è quello che un po' si diceva, lui ha appena cominciato. In questo, no? Comunque, al di là dei meriti che ricordavi tu, che lo conosci ovviamente meglio seguendo le conferenze stampa, dei meriti dialettici, ci sono anche dei meriti tattici, nel senso che comunque Zidane ha ridato una forza, un equilibrio a questa squadra che assolutamente non era scontato, perché insomma sappiamo bene che la disponibilità dei giocatori nelle grandi squadre non è il massimo, no. Quindi riuscire a imporre una mentalità basata sul sacrificio, sull'aiuto reciproco, ai giocatori molto tecnici non è facilissimo. Quello che non riusciva a fare Benitez, è chiaro. Per questa è l'aura di Sisu, lui gioca con loro, cioè, c'era Rafa che andava da Ronaldo a dirgli come tirare le punizioni, e magari Zidane la tira e basta la punizione, e la mette anche nel set. Io penso sempre di più che i giocatori siano sensibili a quanto è figo un allenatore. Sì, cioè, rispetto a 20 anni fa o 30 anni fa, quando i modelli di autorità erano modelli in generale nella società molto più chiari, molto più definiti, per cui i giocatori non avevano tanti procuratori, non avevano tanti agenti, avevano 20 anni, non c'erano i social network, non c'erano i media che ci sono oggi. Insomma, quello era l'allenatore e tu lo rispettavi a prescindere. Allora aspetta, adesso è diverso. Io è tanto tempo che voglio farti una domanda. È tanto tempo che non lo facciamo. Dica tantissimo, beh, un sacco. Noi due, no, ma io preciderei. Domanda a Pardo, no, ci fermiamo adesso per la borsa. Poi c'è una cosa che è un sacco di tempo che voglio chiedere a Pierluigi Pardo riguardo a Cassano. strano. Oh. Però o conosce. Boh, che voi sapete, vabbè, dai, chiama la pubblicità, dopo rispondiamo che c'è la Burs. Wall Street. Bari bene, eh? Bari non male. Mamma mia. Tutti convocati. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Parabrezza rotto? Carglass ripara, Carglass sostituisce. Tutti convocati. Zidane dentro 1-2, Zidane in area di rigore, Sesù, Zidane 3-0. Io penso solo una cosa, perché mi hanno fatto molto Ancelotti e Lippi, però quando non c'hai la palla devi difendere, devi, è quello che il calcio è così, e poi quando ce l'hai devi giocare. Anche noi abbiamo la vincita della partita che abbiamo perso nella Liga, però sappiamo tutti che sarà una partita molto difficile, perché loro giocano bene, non solo difendono bene, giocano benissimo e bene. Dedicato a Zinedine Zidane, Pierluigi Pardo, Filippo Maria Ricci, qui con me abbiamo con noi Cristian Panucci. Ciao Cristian. Ciao, buongiorno a tutti. Come Ciao. Va il golf? Il golf molto bene, è un esaurimento che proprio non riesco a venire fuori. Sì, eh? Cioè, tipo, ti sogni i green di notte? Sì, me li faccio in casa. Hai già organizzato contro Michael Jordan? No, no, ma sono appena tornato da Parigi, abbiamo battuto la Francia 8-7. Abbiamo battuto la Francia 8-7, quello dice che comunque ci dà gioia. Esatto, va sempre bene. Va sempre bene. Adesso cerchiamo di riagganciarlo, Riagganciare. Senti, ma Bari-Novara? Bari-Novara non benissimo. Partita più assurda dell'anno. Pazzesco. No, io volevo chiederti... C'era una domanda? C'era una domanda. Sì, ma c'è prima Panucci, poi facciamo la domanda. Prego. Eccomi. Come la vedi questa finale, Cri? Ma la finale, sai, è difficile, perché sono due stili di gioco diversi. Una sei difende... ciolista? Eh? Sei ciolista? No, secondo me no. Ma Ciolo gioca così perché ha queste caratteristiche di squadra così, perché deve giocare così. È chiaro che se fai un gioco così a Real Madrid ti cacciano alla prima di campionato. Massimo al secondo. Delle cose, perché che a Madrid vogliono un calcio molto più offensivo e quindi va bene l'Atletico di Madrid, ma i risultati che stanno dando dobbiamo stare tutti in silenzio, perché si parla di calcio moderno, ma invece il calcio di Simeone arriva in fondo. Ma poi fa un calcio così, lo stavamo dicendo prima, contro il Real, contro il Barcellona, non è che fa un calcio così sempre, fa un calcio così quando chiaramente è inferiore dal punto di vista tecnico, non ha la possibilità di giocarsela sul possesso palla, ad esempio col Barcellona, e allora si inventa qualcosa di diverso, sì. E spesso funziona. No, no, ma assolutamente, credo che si crei il campo per poi ripartire, è intelligente, lui ha detto noi dobbiamo sapere i nostri pregi e i nostri difetti, e lo fa bene, e quindi è chiaro che invece con le altre squadre qualche metro in più in avanti lo fa. Sei d'accordo Filippo? Sì, però Cristiano, io non vedo invece un Real Madrid così offensivo, insomma per me non ci sono grandi distanze tra le due maniere di giocare, soprattutto in Europa. Beh, devo dire che in mezzo al campo ha giocatori meno di interdizione, giocatori giocano più la palla, Modric sicuramente ha più qualità, è vero che poi in una finale i particolari faranno la differenza, grazie. Per cui anche Real Madrid a perdere l'equilibrio si penserà due volte, perché quando riparte l'Atletico fa male. Per questo è chiave la posizione di Casemiro, no? Sì. Assolutamente sì, ma in una finale... Le chiavi possono essere tante, può essere una palla inattiva, ricordiamo l'ultima Champions vinta da Ancelotti, pareggiata all'ultimo secondo su una palla inattiva. La finale devi stare attenta a tutti i particolari, a una posizione battuta veloce, a un calcio d'angolo. È chiaro che a livello tattico l'equilibrio farà la differenza. A Lisbona i primi due gol, Godin e Sergio Ramos, i due centrali. Cioè questo è esattamente... Sì. E ci si può aspettare qualcosa di simile anche, no? Con tutta la qualità che c'è in campo, però alla fine a Lisbona segnarono i due centrali. Senti, ho la domanda delle 4.000 pistole. Cioè come si... Dal punto di vista di un difensore, Cristiano Ronaldo, come lo si... Cioè, c'è un punto debole? C'è una cosa, diciamo, fra le mille cose che sa fare, c'è una cosa che un difensore deve... Deve imparare. Sì, cioè... Guarda, io quando giocavo, quando incontravo giocatori come lui, perché io lui l'ho incontrato tante volte anche alle sorti, tipo Overmars, te lo ricordi? Sì, gente, sì, si giocava attaccato, gli lasciava la palla sempre in profondità, perché a loro chiederla in profondità non è che gli piaccia molto, e quindi la voglio sul piede e poi puntarsi. Allora diventava una partita uno contro uno, e io quando incontravo questi giocatori bravi nell'uno contro uno, gli devo stare vicino, devo far partita con lui, e credo che lui lo farmi solo così, perché se fai prendere palla e puntarti diventa difficile. E magari lo innervosisci pure un po', no? Se lo tieni... Cioè, perlomeno puoi provare a innervosirlo, insomma. E ricordo un aneddoto con la Barcellona della Madrid, che prima di entrare in campo mi ha detto: ragazzi, tra Hierro, Sanchis, dobbiamo... Il primo che gli passa Ronaldo, quello dell'Inter... Lo stende, lo sdraia. Il primo, un giallo. La prima mezza palla abbiamo ribaltato di 3 metri. Ha cominciato ad avere un po' di paura, perché ha detto: qui come dicevo, mezza palla mi ribalta. Ma purtroppo devi anche... Sì. Quando trovi quelli più bravi, ci sta. Cristian, come lo vedi Zidane come allenatore? È un allenatore da Real Madrid. Questo Real Madrid può reggere il tempo? Adesso vediamo la finale di Champions League, ma può essere un progetto per il futuro? Io credo che abbia il carisma e la personalità per poter essere un allenatore. Bisogna vedere poi come lui affronta negli spogliatoi i rapporti, perché si diceva che Zidane è uno tranquillo, è uno che... È vero che allenare questi grandi campioni non c'è neanche bisogno, li devi gestire. Però dai risultati che sta avendo sembra che insomma sia in grado di fare l'allenatore di sopportare uno spogliatoio così difficile come quello del Real. Però io non lo conosco nello spogliatoio, però ha tutte le carte per poterlo fare. Filippo Marrarecci lo conosce molto bene, sì, perché lo vede tutti i giorni. I rapporti sembrano buoni, Cristian. Appunto, io parlavo con Ramos, ha speso veramente... A parte ne ha fatto un ritratto molto bello, molto umano. Dice, ha superato un po' la timidezza, no? che è innata nel personaggio, parla con i giocatori personalmente. Insomma, sembra che stia... Cioè, lo spogliatoio è sicuramente con lui, e in questo senso insomma lo vedo bene. Secondo me il problema è alla fine al Madrid è uno solo, sono i risultati. Cioè... No, non solo i risultati. Però la Coppa abbiamo visto anche Lotti. Esatto. Allora, devi portare un trofeo, se no si cambia in qualsiasi modo, chi sia, che non ci sia. Il madridismo ogni anno deve portare un trofeo. Io lo conosco bene, e sì, non c'è altra cosa. Può essere bello, brutto, il più bravo di tutti, quello che vuoi, ma se non porti trofei, essendo un presidente nominato, non è uno che mette i soldi e fa... Deve rendere conto, se non vince va a casa. Sì, però Cristian, qui ci sono due signori, Pardo e Ricci, che erano con Fabio Capello quando vinse un trofeo e poi venne cacciato via, quindi non è solo questione di... Cristian mi sa che mi conosce meglio, no, con tutto il rispetto per Pardo e Ricci. Non basta portare un trofeo. Dipende, no, era anche un altro presidente. Il problema è che dicevano che la squadra non giocava bene. Giocava troppo difensivo, e a Madrid devi fare spettacolo, perché il Bernabeu pretende qualità di gioco, qualità di cose, e a quello che ho sentito dire, quell'anno lì il Real non fece benissimo, pur vincendo la c'è un miracolo nella vittoria, però appunto per fare il miracolo ha lasciato per strada il gioco, povere, cioè non poteva fare di più, perché ricordiamoci che quel Madrid distrusse il Barcellona campione d'Europa di Ronaldinho, insomma, Deco e Eto'o, un giovane Messi e via dicendo, insomma, no? Fece un miracolo. Vedi che non basta però portare trofei nella bacheca del Bernabeu. Adesso è un po' differente, secondo me. Adesso il gioco è sempre importante, però è più la maniera. Un po' meno. Giocatori che creano un gioco diverso. Esatto. Devi essere... Se metti Ronaldo, Bale, James Rodriguez, Benzema, e questo, anche se non gli alleni, un po' di spettacolo lo danno. Devi essere anche un po' paraculo con la stampa, secondo me. Perché poi molto, molto, secondo me, di questo pregiudizio estetico che hanno gli spagnoli, appunto, è legato a Segurola, ai giornali, e quindi anche alle questo, radio. No? Alle radio, anche questo, secondo me, conta Mourinho molto. Mourinho ha cambiato le cose. L'arrivo di Mourinho. Voleva provare a cambiare Real Madrid, lo hanno cacciato via. No, Real Madrid non si cambia. Sì, però, forse, l'unico che posso dirti che ha cambiato un po' la mentalità del Real è Fabio Capello. questo devo dare atto. Quando lui arrivò, mise i giornalisti fuori, ha dato una cultura del lavoro che i ragazzi ancora adesso lo dicono, i Raul, i Diello. Fabio, sotto questo punto di vista, ha dato qualcosa a Real, ma per il resto il Madrid non provare a cambiarlo. E questo credo che racconti tutto. Fabio, che ha vinto 2 volte su 2 a Madrid, poi stanno mandando via. La famosa cena di cui parlava Genta, insomma, dopo la vittoria del titolo, con l'arrivo di Calderon, imbarazzatissimo. Sembrava che veramente fosse quasi scontento di aver vinto il campionato, perché non sapeva come cacciare capello. Quindi, Calderon si comportò bene con Fabio. Assolutamente, quella è stata un'assurdità totale, credo, completa. Però Mourinho ha influito molto, considerando il fatto che è stato mandato via, ma Florentino lo riprenderebbe anche domani, con tutto rispetto per Zidane e tutto il resto, e ha cambiato, diciamo, a livello di gioco. A quel punto il madridismo, questa entità, no, che sorvola il Bernabeu, si accontentava anche, diciamo, bastava vincere, perché bisognava smantellare quel Barcellona che giocava così bene e valeva tutto per farlo, e così è stato poi. E quel Barcellona lì probabilmente lo puoi battere soltanto con l'anticorpo, no? con l'esatto contrario, no? Con la stessa lezione simmetrica. Fu la grande scelta di Mourinho, che pagò in quel caso. Però sei d'accordo, Christian? Io non so se lo riprenderebbe, però una cosa è dirlo sui giornali e poi farlo veramente. Mm-hmm. E secondo, io, avendo giocato lì, e credo che José fece l'errore di voler cambiare, andare dritto per la sua strada, e pagò attaccando anche qualche giocatore a quell'epoca lì, facendo fuori Valdano. Sì, sì, così è, no? Con i giocatori ha perso, ma con la gente ha vinto. Cioè, c'è ancora la jihad mourinhista è ancora fortissima a Madrid. Questo va tenuto presente. Io ve lo dico assolutamente. José dove va, lascia il segno, perché ha distrutto il Barcellona. Esagerò un po'. Sì, sicuramente. Infatti, Florentino si rassegnò. E attenzione, e perde, c'è anche un po' un contrappasso. Va via dopo aver perso la finale di Coppa del Re in casa contro Simeone. Non perdevano dal 99. Lui la perse nel 2013. Non perdevano dal 99 con l'Atletico. L'ultimo a vincere al Calderon, Claudio Ranieri. Sì, al Bernabeu, Claudio Ranieri. Pensa a te. Con l'Atletico, 99. Ciao, Christian. Grazie. Ciao, Grazie a voi, ragazzi, è stato un piacere. Buon golf. Fatta bene, qualche bene. Colpo di pubblicità, come diceva il grande Mario Camicia. Adesso facciamo una botta di strade, di informazioni sul traffico, e torniamo. Parlando di golf. Tutti convocati. Tutti convocati. Mentre con Pierluigi Pardo e Filippo Maria Ricci stiamo parlando della finale Champions League che vedremo qui a Milano, con la Spagna che si trasferisce qui. Servo la domanda di prima. Tenemos so Focus tenuto, Economia a las 5:30 de la tarde con Sebastiano Barizón. Todas las noticias sobre los mercados accionario, obligacionario y obligacionario. Mucha atención. Cuidado. 800 24 0024, numero verde, c'è già Riccardo da Catania. Senti, volevo chiederti questo a proposito del carisma degli allenatori. Si è sempre detto che Cassano fosse sensibile al pregresso, al passato di un allenatore, fosse sensibile a quanto chi lo conduceva, lo dirigeva, era stato un grande giocatore. Tutti un personale. I giocatori lo sono. No, tutti. Tutti i giocatori. Dici di Cassano. Ma no, Cassano sensibile, secondo me, non, in realtà non tantissimo sensibile. No? No, perché secondo me non è uno che vive, cioè tu dicevano da ascolto a chi è stato un grande campione, da meno ascolto a chi invece un grande campione non lo è stato. In assoluto è molto sensibile al calcio tecnico, cioè quando parli con lui anche proprio a cena, a lui piacciono tutti i giocatori tecnici, ecco, a lui probabilmente Casemiro non piace, no, direbbe, non gli scalda il cuore. È chiaro che è utile, però ecco, però no, non credo che sia partito. Io credo che sia un dato complessivo quello che dicevamo prima, perché è un'altra generazione, oggi è tutto mediatico, oggi quindi essere un figo, insomma, aiuta, secondo me, molto di più. Essere Zidane aiuta. Essere Zidane aiuta, essere Mourinho aiuta. Sì. Probabilmente Klopp, in questo momento, essere Benitez Klopp non aiuta così tanto. No. Probabilmente a Madrid è stato un po' respinto come uno in fase calante, no? Fin dai primi giorni. Però questo rende. Poi ci sono pure sicuramente le colpe. Benitez, che le dia subito Cristiano Ronaldo, non sarà stato paraculo nel porsi. Però secondo me Insomma, oggi rispetto al passato, l'elemento, sì, Morata, Mascherano, Dani Alves, adesso ne parliamo, l'elemento del prestigio e della coolness, come dicono gli inglesi, cioè della figaggine di un allenatore mediatico, conta. Questo soprannome è il DS, è esattamente l'incarnazione di quello che si stava dicendo Pierluigi. Allora, non svegliamo nessun segreto, magari sono prescritte, comunque gli archivi di Stato sono aperti. Quando dopo Mourinho Marco Materazzi passava davanti all'ufficio di del DS cantava José Mourinho, perché è così, e poi quello ovviamente per ripicca lo lascia fuori, gli fai dispetti. A Madrid diventa il DS. Guarda, l'altro giorno è venuto Marcelo, no, in zona mista, e ha dato una dice no Zidane, ah, grandissimo, è entrato qui cagliadito, cioè silenzioso, cioè un giocatore che parla di Zidane dice no, è entrato da uno spogliatoio tranquillo così, e questo cioè il modo di porsi è fondamentale, e in più ci metti che tira il gruppo, tira le punizioni, fa la partitella, fa il cagnito, no, il tunnel, le cose, e questo gli piace a sti ragazzi. Ugo, buongiorno. Buongiorno a voi. Comunque, dica. D'accordo con voi che oggigiorno essere un po' fighi conta. Si apre quella porta, conta, anche perché ti apre quella porta in più, però deve essere poi bravo tu a dimostrare, certo, che basta chiedere a Pardo, no. Che cosa? Se soffrivo io c'è speranza per tutti, grazie comunque. No, poi su Cristiano Ronaldo, secondo me, per fermarlo, secondo me ci si deve allucinare piano piano e dire in modo convinto sappiamo dove abiti. Sappiamo dove abiti, ti veniamo ad aspettare, esatto. so dove parcheggi la macchina, esatto. Andiamo veloce, grande su Riccardo, Ugo. Perché poi dobbiamo parlare di Morata, Dani Alves, Morata, Dani Alves, Mascherano, sì. E abbiamo ancora due minuti. Ciao Dal. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, dica. Niente, io allora, Diego Simeone è stato 5 anni fa l'allenatore del Catania in Serie A, sì. Ha lasciato un bel ricordo a Catania, anche se anche là c'erano molte persone che non piaceva come faceva giocare la squadra, ritenuto difensivista. Però la partita più indimenticabile, diciamo, con Simeone allenatore fu quando abbiamo pareggiato a Torino con la Juventus 2-2, e credo che lui in quell'occasione ha inaugurato la famosa fuga che fa in mezzo al campo agitando le braccia, no? Fu in quella partita che all'ultimo secondo pareggiammo con un gol di Lodi su punizione, dopo una partita bellissima. Sì, io mi trovavo in quel momento a Berlino e vedevo la partita in una tifferia dove erano tutti i tifosi della Juventus. E ha goduto come un riccio. E ha fatto anche lei la corsa verso il centro della pizzeria. Ha fatto la corsa verso il centro della pizzeria. Io ero a cena in un ristorante nel Levante genovese. Volevo dirvelo, magari eravate preoccupati. Comunque, allora, c'era Ranieri in panchina. Sto controllando. Sì. Lodi era il Cristiano Ronaldo. Lascia stare Lodi. Toglici in un minuto questa storia. Mascherano la Juventus. Morata che fa? Del Neri. No, Del Neri. Del Neri dove va? No, Del Neri. Non facciamo casino. Allora, Morata, Dani Alves e Mascherano. Allora, Mascherano, che sarebbe probabilmente il giocatore più utile alla Juventus, lo vedo molto complicato, perché comunque ha un contratto ancora di 2 anni, una clausola da 100 milioni, guadagna un sacco di soldi, bisognerebbe teoricamente convincere il Barcellona a lasciarlo, e la vedo male. E Dani Alves ha nel suo contratto, firmato l'anno scorso, di 2 anni, una clausola che gli permette di andare via gratis se lo annuncia prima del 5 giugno. Quindi è da qui tutta questa fretta improvvisa. Così. Dani Alves per me sarebbe ovviamente un grande acquisto, però bisogna vedere in che modo arriva. Quest'anno ha fatto una grande stagione, però ha 33 anni ed è un certo. Abbastanza loco, come dicono. Insomma, bisogna vedere quanto si impegna e quello che trova. Morata? Morata, il Real Madrid lo vuole prendere per poi rivenderlo, vuole farci soldi. Però attenzione all'europeo di Morata, perché Morata è l'unico 9 che c'hanno, praticamente. Certo. Poi c'hanno Aduriz che c'ha pochi anni meno di me, e per cui insomma bisogna vedere che... Quindi ancora juniore. Esatto, bisogna vedere cosa... L'europeo di Morata potrebbe cambiare la situazione, sì. Allora, io saluto Pierluigi Pardo. Grazie per accettare. Sì, vado, perché oggi detto così, cioè, capito, oggi che c'è la da vita. No, vedo Ronaldo, Materazzi e Pelé. Mamma questi sono quelli, sono quelli confermati. Ci sentiamo domani. Ho incontrato Allegri che mi ha offerto il gelato. Esatto. Peccato che non posso venire. Ci sentiamo domani. Anche con Filippo Maria Ricci, ma al telefono. Vamos. Ciao. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Giovanissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. State ascoltando un programma offerto da Parabrezza rotto? Carglass ripara, Carglass sostituisce. Tutti convocati. Dunque torniamo, argomento di giornata, la finale di Champions League a Milano. Ne abbiamo parlato con Pierluigi Pardo, Filippo Maria Ricci, inviato alla Gazzetta dello Sport in Spagna, che sa tutto e che risentiremo nei prossimi giorni. Non escludo di ritrovarlo in questo studio domani. Mi ha raggiunto un altro Ricci, che è Dario, che tra poco ci racconta delle storie che lo stadio del Meazza ha visto a proposito della finale di Champions League. Ciao Dario. Ciao Carlo. Però intanto Sandro e Maurizio. Buongiorno Sandro. Buongiorno. Chi vince? Chi vince? Chi bravi. Vince la finale Champions League? Ma chi vince? Secondo il me ciolismo o lo zidanismo? Io volevo solo fare un accostamento tra la bellezza del calcio che esprime in Barcellona, la bellezza del calcio che esprime il ciolismo e la bellezza del calcio del Real Madrid. Posso essere, diciamo così, blasfemo. Sì, sì, blasfemia che, consentita. Sì, che la bellezza del calcio che ha espresso il Barcellona di Pep Guardiola e di Luis Enrique è paragonata alla bellezza di Michelangelo. Io farei delle distinzioni, ma comunque, perché io preferisco il Barcellona di Luis Enrique rispetto a quello di Guardiola, ma comunque sono gusti personali. Invece l'Atletico lo accosterei alla bellezza dei quadri di Caravaggio, del grande Michelangelo Merisi. Sì. E il Real Madrid, secondo Picasso. Me. Picasso, bravo. Mi hai tolto la parola di bocca. Ho indovinato un occhio qui, l'altro di là, e poi chi ha la fantasia per intendere, intende. Però la bellezza pura. Secondo me, ma sa, io ho sempre pensato che insomma le opere d'arte siano qualcosa che non si legge con il pensiero ma con l'anima. Adesso non voglio fare della filosofia, stiamo parlando di sport eccetera, però è bello ciò che ci impressiona e ci emoziona, no? Quando guardiamo un quadro non è importante se un occhio è di qua e l'altro di là, l'ha dipinto Picasso, se c'è Caravaggio, Michelangelo. Rimaniamo impressionati ed estasiati, abbiamo la sindrome di Stendhal di fronte a opere di vari artisti e anche in questo caso possiamo parlare di una sorta di forma d'arte. Lei ha ragione, mi è piaciuto molto il suo intervento. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti. Niente, io volevo intervenire sul discorso del ciolismo. Penso che facciamo della filosofia o dell'arte anche qui. Sì, penso che il precursore sia. Voi parlate tanto di Simeone, ma Mourinho. Perché guardando le squadre di Mourinho, insomma, sono abbastanza d'accordo. Cioè, voglio dire, non ha lasciato una traccia importante a livello estetico, proprio di bellezza calcistica. Poi la penso come voi, la penso come te, quando come lei quando dice che te va benissimo. Forse il Barcellona di Luis Enrique sia diciamo, perché il tiki taka è molto molto molto noioso. È vero che la tecnica il Barcellona di Luis Enrique a me fa impazzire, cioè mi ha fatto impazzire per gran parte della stagione l'anno scorso, perché è una squadra che non solo fa tiki taka ma ha grande capacità di controllo della palla, ma anche grande capacità di verticalizzazione, anche grande killer instinct, anche grande capacità di fare male, quindi è una squadra che a me piace immensamente. Poi si è sciolta in Champions League sul più bello, però rimane comunque una squadra meravigliosa se parliamo di arte. Poi sono d'accordo sul fatto che il ciolismo non è molto diverso dal murignismo. Il che non è una diminuzio o una bestemmia o una blasfemia. Dario Ricci. Sì, cambiano i budget, no? Perché Mourinho fa quel calcio con, sì, magari lo faceva con budget più importanti. Il Ciolo invece ottimizza, insomma, anche se poi sì, non è certo una squadra povera rispetto dei nostri. Però insomma, mi ha chiamato di storia e di finali vissute nel Tempio di Milano. Eh sì, perché la Scala del Calcio è uno dei palcoscenici abituali dell'atto finale della Champions, ma soprattutto della Coppa Campioni, perché questa è appena la seconda volta che la Champions sbarca nell'atto finale qua a Milano. E allora torniamo, Carlo, al 27 maggio del 1965. Per la prima volta San Siro ospita una finale con una squadra di casa. È la grande Inter che affronta il Benfica di Eusebio. Sentite un po' come è andata a finire. Elegante disimpegno e poi battuta lunga a favore di Mazzola. Fa Mazzola. Palla per... poi Peiro, anzi corso, ancora Mazzola, Jair, va al tiro, Jair sfugge il pallone a Costa Pereira e l'Inter è in vantaggio. Il pallone è arrivato a Jair che da destra ha lasciato partire un rasoterra teso ma sul quale era ottimamente piazzato il portiere Costa Pereira che ha intercettato ma non ha trattenuto il pallone. Eh sì, decisiva quella sera l'errore di Costa Pereira, favorito anche dall'acquazzone che il giorno precedente, a poche ore da quella finale, si era abbattuto su San Siro. Sentiamo come ha ricordato per i nostri microfoni quella sera uno dei protagonisti, Sandro Mazzola. Fece una papera incredibile, ma è il fatto che il Cino era un brasiliano e tirava, se non tirava mai pulito, tirava sempre sporco e quindi ingannava i portieri, ma l'importanza fu il pubblico. Avevano tutti delle lumine in mano che a fine partita non riuscivamo a uscire dal campo, fu bellissimo. Entrammo e quando vedemmo tutto quel pubblico, tutti che cantavano, che applaudivano, ci venne un po' il fiatone a dire la verità. E difatti io credo che per un po' non giocammo bene proprio per la tensione che avevamo dentro, perché non potevamo deludere il nostro pubblico. Eh sì, insomma, l'emozione di giocare una Coppa Campioni in casa. Passiamo al 6 maggio del 1970, ancora San Siro, il palcoscenico della finalissima, stavolta di fronte gli olandesi del Feyenoord di Rotterdam e gli scozzesi del Celtic Glasgow. Passano in vantaggio proprio gli scozzesi al 29esimo con una punizione di Gemmell. Pensa, Carlo, che l'arbitro Concetto Lobello si ritrova a metà sulla traiettoria della palla e praticamente, vedendo le immagini, secondo me è più decisivo dello stesso tiro. Ha segnato anche lui. Praticamente sì. Arriva poi il pareggio dopo pochi minuti di Israel per il Feyenoord. Si va ai supplementari, la rete decisiva, ve la faccio sentire, dello svedese Kindvall. Israel with the free kick. And a penalty! It's a penalty! And it's a goal! He didn't give the penalty, he gets the goal! Kindvall has done it! Qua sentite, il telecronista parla di penalty perché c'è la punizione dalla tre quarti di Israel. Il difensore del Celtic che tocca la palla con le mani, però Kindvall si impossessa del pallone e segna su pallonetto la rete del decisivo 2-1. Un Feyenoord che tra l'altro, Carlo, aveva eliminato il Milan, detentore del trofeo, che aveva battuto in finale l'anno precedente l'Ajax e che apre la stagione delle olandesi, perché poi inizierà il ciclo delle tre vittorie dell'Ajax di Cruyff. Quella è un'altra storia che poi racconteremo. Ultimo atto, l'ultima finale finora giocata a San Siro, è la prima della Champions. Siamo al 23 maggio 2001, partita non epocale per quanto non riguarda... indimenticabile. Te la ricordi, insomma, che una noia. Una schifezza totale. L'1-1. Cioè, per chiamarla col suo nome, una schifezza totale. Siamo molto, al di sotto del livello del ciolismo, ecco. Siamo alla pornografia calcistica. Hai ragione, l'1-1 nei tempi regolamentari tra Valencia e Bayern Monaco, deciso tutto dal dischetto perché passa in vantaggio il Valencia con un rigore di Mendieta, che in questi giorni è impegnato anche come DJ qua a Milano, perché vuole andarla a sentire dai dintorni di Piazza Duomo. Il pareggio di Effenberg, si va ai rigori. I tifosi della Lazio fanno la ola ancora adesso. È vero, è vero. Saranno tutti al rave di Mendieta, tutti convocati al rave di Mendieta, giusto per ricordare quei tempi in cui la Lazio si rovinò per questo disastro di giocatore. Va bene, dai. Cifre clamorose vennero spese, ma quella Lazio era un po' sovradimensionata. Sì, anche Mendieta era tutto sovradimensionato. E allora poi si verdetto ai calci di rigore, il grande protagonista è Oliver Kahn che para i tiri di Zahovic, Carboni e Pellegrino, esaltando i telecronisti tedeschi. Zahovic. Kahn! Kahn, Oliver Kahn, wer sonst? Carboni. Pellegrino gegen Kahn. Ed eccolo qua, il rigore decisivo. Questa era l'ultima finale fino alla disputata a San Siro, o meglio fino a sabato sera. Secondo te come finisce? Tifo atletico, credo che vincerà il Real. Tifo Real, temo che vincerà l'Atletico. Io preferisco quelli col talento. Non sono un fan del ciolismo e quindi insomma mi piacerebbe vedere il Real vincere la Coppa. Sarò banale, sarò populista, ma no, ma ci sta insomma sempre. E poi anche quella di Zidane, perché non è una storia interessante questo. Mi piacciono le squadre forti con i grandi giocatori, con i grandi piedi. Sì. A me piacciono quelli lì, cosa volete che vi dica? Beh, ma magari sarà la coppa di Griezmann piuttosto di Cristiano Ronaldo, eh? Vediamo. O Cristiano Ronaldo, come scriveva un ascoltatore prima, che sbaglia il rigore decisivo e fa felici tutti i fan del ciolismo. E si spettina per una volta. Non credo. Grazie Dario. Grazie a te. Alla prossima. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno. Estremo rispetto per le opinioni di tutti, ovviamente. Io sono diametralmente, la penso diametralmente opposta su Guardiola e il Barcellona. Il Barcellona di Guardiola e poi più le emozioni che ti teneva per 90 minuti Guardiola, secondo me non hanno paragone. No, certe volte era come guardare un Gran Premio di Formula 1 o un match di tennis. Ti sento completamente. Comunque, senso di tecnica. Ma Gianfranco, allora intendiamoci bene, poi ognuno intende lo sport, le emozioni, il calcio come ne ha voglia. Guardiola è stato un grande innovatore, è un gigantesco allenatore, è un personaggio del nostro tempo, è un grande intrattenitore e circense. Però io, se devo scegliere tra il suo Barcellona e quello che vedo adesso, io preferisco quello di Luis Enrique, ma sono semplicemente gusti personali. A me vedere quella ostentata circolazione di palla a ritmo lento non piaceva più di tanto, semplicemente questo. Poi posso capire che fosse frutto di un grande lavoro, di una grande tecnica individuale, di un grande sistema di gioco, di una grande filosofia, visto che abbiamo usato diverse volte questa parola, peraltro a sproposito, soprattutto nel corso di questo programma, certamente. Però cosa vuole che le dica? A me il tiki-taka, il Barcellona del tiki-taka non faceva impazzire. Io ho ammirato in maniera sviscerata anche il Barcellona di Luis Enrique di quest'anno. Ad esempio, non potrò mai dimenticare quella partita sciagurata per la Roma, contro la Roma, in cui andavano in porta con il pallone ad ogni verticalizzazione come dei killer spietatissimi. Secondo me addirittura il simbolo di questo Barcellona non è Messi, non sono i centrocampisti, non è Iniesta, ma è Luis Suarez. L'immagine e il simbolo di questo Barcellona è lui, ed è semplicemente un killer. Allora, io adesso voglio farvi sentire un paio di altre cose prima di parlare con altri ascoltatori, 800 24 00 24, di collegarmi col Giro d'Italia, anche per capire quali come si dividerà il tifo dei ciclisti spagnoli in questa finale. Partiamo dal racconto televisivo di questa partita, perché sarà particolare, qualcosa di mai visto, di totalmente sui generis. Gianluca Festa, produttore di Mediaset, è intervenuto a 2024 con Enrico Pagliarini e ha spiegato cos'è il 4K, che per me è arabo. Abbiamo deciso di trasmettere in 4K la partita di San Siro, quindi la finale che si disputerà sabato prossimo. Stiamo lavorando ancora e cercando di progettare completamente il prodotto per i nostri telespettatori, di modo che sia completo e per noi sia uno dei nostri fiori all'occhiello, oltre al prodotto in alta definizione, ovviamente. Bene ragazzi, adesso vi faccio sentire qualche pronostico. Cafu, Lippi, Cordova, Leonardo, Tacchinardi e il sindaco Pisapia. Poi andiamo al giro. Io sono oggi come oggi sono più atletico di Madrid. Ah. Per cui è una squadra più compatta, è una squadra molto consapevole di quello che devono fare. Non hanno del gran nome, dei grandi fenomeni, però come squadra loro giocano molto meglio. Farà il tifo per Zidane? No, vabbè, lo faccio. Mi farebbe piacere, perché sta facendo un percorso molto bello, molto importante, e anche molto, mi sembra che sia gratificato dalla stima di tutti i suoi giocatori, e ogni giorno c'è qualche intervista che lo testimonia. Mi farebbe piacere, però che vinca il migliore. Vedo comunque un Atletico molto carico, soprattutto partendo dal suo allenatore. Penso che sarà difficile che lui si faccia sfuggire questa possibilità. Fra Champions e Europa League sono 3 su 4, veramente tanta, è molto, e purtroppo negli ultimi 2 anni ha vinto sempre gli spagnoli, sia una competizione sia l'altra, quindi quest'anno sarà ancora così, difficile sapere chi vince, non lo so, se devo dire così penso che vincerà l'Atletico Madrid. Sto col Ciolo perché penso che per un giocatore poi come me, che ha sempre lavorato molto sul sacrificio, l'umiltà, la voglia sempre di migliorarsi, è il prototipo di allenatore che veramente riesce a alzare il suo prodotto, e tanto di cappello questa società, che magari non prende nomi altisonanti ma gente che ha fame, e alla fine a volte con sacrificio e sudore si possono ottenere risultati importanti. Quindi sto col Ciolo, non me ne voglia Gesù, che è un amico. Chiaramente non ci sono squadre italiane, ma 2 squadre di Madrid è anche un segnale importante di 2 rapporti di grande amicizia tra 2 città amiche che hanno lavorato insieme, si sono impegnati insieme. Adesso vince il migliore. Nell'ordine: Cafu, Lippi, Cordoba, Leonardo, Tacchinardi e il sindaco Pisapia. Vinca il migliore, pronostico salomonico. Ciao Piero Augusto Staggi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Giro come va? Il giro va bene, oggi si arriva a Pinerolo, è una tappa facile fino a 40 km dal traguardo, poi i corridori saranno chiamati a alzarsi sui pedali perché ci saranno 4,5 km piuttosto duri, con pendenze dell'8% e punte anche del 17%, ci saranno 500 metri veramente spacca gambe, e quindi qualcosina potrebbe anche succedere vista di domani e dopo. Certo. Che invece saranno proprio 2 tapponi alpini, anche se di grandissimo sembra livello, ai noi purtroppo scritto. Come si divideranno gli spagnoli del giro? Ciolisti o madridisti? Madridisti. Sì, in blocco. Hai fatto un sondaggio, sì, tutti no, madridisti. Allora Valverde per esempio? Real Madrid, proprio il tifoso del Real Madrid. Tifoso con la bandiera, sì. Sì, con la bandiera, e c'ha anche lo striscione nella valigia, Maria. C'è una sciarpa, lo striscione. Una sciarpa. E ho parlato anche con un collega di AST, José André Echerro, che è un tifoso tra l'altro madridista anche lui, e mi ha un po' spiegato che in realtà l'unico atleta che è per il Ciolo sarebbe stato Mikel Landa. Appunto, Landa sarebbe stato interessante perché basco, no? Esatto, lui in realtà è tifosissimo dell'Alavés, una formazione di seconda divisione, però come tutti quelli che tengono hanno nel cuore la squadra piccina, hanno anche un amore per una squadra invece della prima divisione, e lui è un tifoso dell'Atletico Madrid, l'unico di 16 corridori che sono partiti dall'Olanda in questo Giro d'Italia. Però Landa è tornato a casa. Quindi non fa più parte del plotone, e quindi è un trionfo di Blancos. In realtà ci sono, diciamo, c'è un nucleo abbastanza folto di tifosi dell'Atletico Bilbao, perché certo, corridori baschi ce ne sono, no? E quindi stanno dalla parte del Ciolo. Così. Stanno dalla parte del Ciolo, chiaramente. Lo dicono, sì, vabbè, se devo proprio scegliere. Qui questioni parapolitiche, sono, no? Parasociali. Sì, sì, sì. Sono contro la centralità madrilegna. Chiaro, tutto chiaro. Però ci sono anche diversi agnostici, eh? Ce ne sono quattro. Ho fatto il conto, ad esempio, Errada, Moreno, Rojas, Mikel Nieve e lo stesso Armecheta. Che hanno dichiarato in porta Sega. No, uno mi ha proprio, cioè, in realtà Rojas mi ha proprio detto: scusami, ma tu ti occupi di ciclismo? Sì, è occupati di ciclismo. Vabbè, ma siamo contro le specializzazioni, ognuno si occupa di qualunque cosa, stiamo parlando di sport. Sì, spiegagli che essere integralisti non paga fino in fondo. Alla fine tutti guardiamo il Giro d'Italia, tutti guarderemo la finale di Champions League, ognuno con i suoi gusti. Il tuo qual è? Io per chi parteggio? Io sono per il Real. Bravo Stagi, anch'io. Anch'io sono per... Io sono per anch'io, sono, anch'io sono per il Real Madrid. Al di là di Gesù, anch'io Ronaldo. Sono... Sì. A me piacciono quelli bravi, mi piacciono quelli forti. Ma sì, quelli che giocano bene. A me quelli poi che giocano bene. Tatticismo, i pullman parcheggiati davanti alla porta. Poi adesso, è finita la trasmissione, quindi gli insulti a domani. Io sono per quelli che hanno talento, per i giocatori che valgono il prezzo del biglietto, e il Real Madrid ne ha diversi, l'Atletico Madrid meno, li rispetto, grande filosofia, grande idea di calcio, però mi piacciono di più quelli bravi come te. Ciao Stagi, ci sentiamo domani. Ciao, saluto anche a domani Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in redazione. Ciao a tutti, saluti.